Kerenia dal Giappone e prima ancora erano i Rain di Roma con Sul Tetto. E abbiamo iniziato così questo viaggio di 13 canzoni in questo mese di dicembre, realmente freddo e gelido, che poi non è nient'altro che il tempo di questo mese dell'anno. In questo mese di dicembre dove ci si avvicina a delle festività, in questo mese che vuole essere in qualche modo festoso, Natra Radio Roma, attraverso Mr. Gasperino, vi sta regalando queste 13 tracce da ascoltare e riascoltare anche durante il periodo festivo natalizio. Del resto qui a Natra Radio Roma, come dicevo all'inizio, si fanno fatti, non chiacchiere. E i fatti di oggi sono quelli di passarvi tanta bella musica, pescata qui e là, sui siti che ce lo permettono. Tant'è vero che il prossimo brano che vi sto per passare è tratto da Dogmazic, un sito realmente radicale che consiglio a tutti di andare a vedere perché ci si può trovare tanta tanta bella musica. Il gruppo che vi passo si chiamano Cat on Nine Tails e il brano si intitola Night Light. Successivamente voglio regalarvi un progetto. Loro sono di Como e rispondono al nome di Iridea. A novembre sono usciti su Giamendo con un album dal titolo Dea, da cui prendiamo il loro brano. Prima però ascoltiamo Cat on Nine Tails. Mi piace questo progetto da Natra Radio de Roma. Come te parto adesso, vado in cerca di risposte su me stesso. Come te sono io, problematico per niente emotivo. Polvere, vedo polvere, polvere. vedo polvere su me. Deve le emozioni delle cose più comuni farmi risvegliare i brividi qua giù. Deve la passione di una strana sensazione che farmi dividere l'anima come te. Sono i progetti che bollano in pentola a Nartra Radio Roma. Come avete visto, dal mese di novembre abbiamo cominciato con il trasmettervi degli eventi fondamentali e importanti, come il lunedì il jazz e il martedì i concerti di musica classica. Continueremo così anche per i primi mesi e chissà quale altre alternative e proposte saranno fatte dai quattro pazzi di Nartra Radio Roma. Ma andiamo avanti in questo podcast. Il brano che vi vado a presentare rimane su queste sonorità, toste e belle. Metal francese, lui si chiama Will Liam. Successivamente andremo a regalarci una coccola per tutti quelli che si amano, che si vogliono bene. Ascolteremo Aida Canin con Casanova. Ma prima andiamo in Francia, andiamo in Francia, andiamo in Francia, andiamo in Francia, andiamo in Francia. We'll be right back. Casanova il prossimo brano, e lei è Aida Khan. Khan, Khan. Tu verras, ça peut t'aider. Pas envie, pas envie, viens essayer. Tu verras comme d'autres que ça peut vraiment changer. Tu passes ta vie à mentir, à racoler. Si tu cherches encore, tu vas te casser le nez. À toutes les copines, venez donc. Et nous excuser à ce coup qu'on peut pas ignorer. Ipso facto, tiens, ça se complique. On t'a péré d'un plégie. Ipso facto. Amiche di Natra Radio Roma, la nostra incontenibilità si manifesta attraverso questi lavori. Abbiamo voglia di regalarvi tanta tanta tanta bella musica. E il prossimo brano che vado per passarvi è estratto anch'esso da Dogmatic. Si chiama Neve e loro sono Bianconiglio. Successivamente, da un paese scoprite dove, per capire che la musica bella esiste in tutto il mondo, vi regalo Luna dei Neroli, dei Neroli, dei Neroli. Freddo, bisturi, candidi, immobile, pensi vicino a me. Solitudine piena di un solo colore incantevole. A volte sai di sale il zucchero bianco al sole. Di lacrime, sogni sopra un sottile strato fragile. Stanca, raffreddi un poco del mio sangue morbido che scorre nelle vene in uno stato ibrido. Cadi lenta e sicura, ti sciogli serena dentro di me. Bianca come al di là dei pensieri. Tristi incantevole. Descriverei per una volta ancora ogni singola onda che crei in me. Descriverei prima che si sciolga ancora ogni curva sinuosa e palpabile. E ho freddo nel conto, saturo ogni spazio perfettamente irregolare. Respiri i miei sospiri, tengo su chiusi i miei più intimi pensieri. Dentro di te hai cucito con arte ammirevoli sparci di felicità. E coi tuoi occhi di perle di luci mi avvolgi instabile. Quando mi sdraio nel tuo ghiaccio che mi porta verso dolci fantasie che un po' mi fanno male, ma lo sai che non mi accorgo del tuo morbido respiro che mi abbraccia e mi consuma come neve che... Come neve che copre gli sbagli, le angosce più torbide e facile. Io ti guardo nascosto dal vetro di casa, cercando di dirti che descriverei per una volta ancora ogni singola onda che crei in me. Descriverei prima che si sciolga. Narra Radio Roma, Neroli con Luna. Захотелось луне той, что плачет ночами, прикоснуться к земле. Может, знаешь зачем, может, знаешь зачем, чтоб меня печалить. Может, знаешь откуда эта прихоть луны, не с того ли случайно, что жасмина и нарта белизну облачала эта ночь. Или просто за тем, чтоб меня опечалить. Может, знаешь, зачем белый свой аромат лепестки излучали? Для чего белый траур ночь тогда облачалась? И целуя меня, ты сквозь слезы смеялась здесь, на этой земле, чтоб меня печалить. Может, знаешь, откуда эта прихоть луны? Не с того ли случайно, что жасмина и нарта белизну облачала эта ночь? Или просто за тем, чтоб меня печалить? печалить. Может, знаешь, зачем белый свой аромат лепестки излучали? Sentite un po' che cosa ho da darvi ancora. Loro sono i Fly Paper for Freakless con Standing by the Meaning. Successivamente ascolteremo Mon Mammoth con Love Needings. You lay me down. Cause I need it. Cause I want it. Cause I love it. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Gasperino ha voluto così regalarvi fino ad ora diversi artisti che vengono da diverse parti del mondo. Ma adesso torniamo nel nostro paese. Loro sono di Roma, si chiamano Circuiti Aperti e ci propongono un progressive realmente interessante. Il brano si intitola Trotto. Successivamente un trio che risponde al nome di Fosca, Bernardo e Santese. Il brano si intitola Roma Underground 1982. Buon ascolto.

incollati alla poltrona, dove si parla, bla bla bla bla, dove si fuma. Che bella Roma, che bella Roma. Senza parole, proprio questa cosa mi lascia senza parole. Allora, che cosa ne dite del regalo che vi ha fatto un'altra Radio Roma e del pacchettino che vi trovate in questo blog da scartare pezzo per pezzo? 15 canzoni compongono il vostro e il nostro Natale, come del resto a dicembre 2010 viene pubblicato su Giamendo questo LP, Inverosimile. Bob Brown, all'anagrafe Roberto Bruno, si fa conoscere attraverso questo lavoro. Io ve lo passo e voi lo giudicate. Dopo questo brano, ascolteremo un gruppo dalla Puglia realmente interessante. Si chiamano Le Fiamme del Mare e lo risentiremo nuovamente. Anche questo gruppo ha pubblicato ultimamente su Giamendo il proprio EP. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è La Danza di Thanatos. Però prima, di Bob Brown, Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Inverosimile. Un'altra radio. Segna il mio tempo, giudicando gli eventi, accadimenti sospetti, e non sono contento dentro questa vita, e se sto fermo un momento, non mi giudicherò. Sento solo e non ho bisogno di convincermi che sia così. Io ho bisogno di te che sembra tutto vuoto, è inverosimile. So solo che sei un'illusione che aspetta dentro me per dare fuoco a quel vuoto, perché cambiare è impossibile. Mi prendo a smascellare e a ringare in difesa, tu non mi puoi toccare. È solo che non mi fido più di me stesso. Come potrei riconoscermi? Solitudine anarchica, musicalmente mi vomita e mi sbaglia. Mi sento solo e non ho bisogno convincermi che sia così. Io ho bisogno di te che sembra tutto vuoto, è inverosimile. So solo che sei un'illusione che aspetta dentro me per aiutare il nostro spirito, solo perché noi qui a Nartra Radio Roma amiamo non avere limiti e per il gusto di farvi ascoltare tutta la musica in circolazione abbiamo deciso di passare, anzi ho deciso di passarvi questo pezzo con cui andrò a salutarvi. È un pezzo rock, ma sicuramente è ispirato alla musica spirituale indiana. Per chi ama la meditazione e per chi ama liberare il proprio spirito e aiutare la Kundalini a salire, a risalire e a liberare i chakra, direttamente Chanakyas. Shakti namo namah Prathama bhagavati namo namah Kundalini mata shakti Mata shakti namo namah Adi shakti namo namah Sarva shakti namo namah Prathama bhagavati namo namah Kundalini mata shakti Mata shakti ascoltatori, a Mr. Gasperino non resta che ringraziarvi per averci seguito in tutto questo tempo, in tutto quelli che sono state le nostre programmazioni, i nostri deliri. Beh, è semplice, quattro amici si sono riuniti per costruire un gioco, quello di trasmettere musica, perché è quella che loro amano di più, e hanno scoperto un mondo nuovo, quello lontano dalle licenze tradizionali, quello fatto di artisti, artisti che sudano e si sbattono per farsi conoscere. E così siamo diventati un pochino il loro faro, tant'è vero che il nostro logo è rappresentato da un faro. Un faro che illumina chiunque volesse unirsi a questo progetto. Un faro che indica la strada più giusta. Tutto questo per dirvi che cosa? In quest'anno, perché siamo circa un anno dall'evento della nascita di questa web radio, quest'anno abbiamo raccolto diverse soddisfazioni. Chissà che cosa ci presenta il futuro e chissà quanti di voi si uniranno a questo progetto. Vi ringrazio sentitamente, vi auguro buone festività e vi do appuntamento al prossimo anno per quello che mi riguarda, per i prossimi lavori di Nartra Radio Roma. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!